Credo che ci voglia un Dio ed anche un bar. Credo che stanotte ti verrò a trovare per dirci tutto quello che dobbiamo dire, o almeno credo. Credo proprio che non sia già tutto qui, e certi giorni invece credo sia così. Credo al tuo odore e al modo in cui mi fai sentire, a questo credo. Qua nessuno c'ha il libretto di istruzioni, credo che ognuno ci faccia il giro come viene a suo modo. Qua non c'è mai stato solo un mondo solo, credo a quel tale che dice in giro che l'amore porta amore. Che quando smetti di sperare inizi un po' a morire. Credo al tuo amore e a quello che mi tira fuori, o almeno credo. Credo che ci sia qualcosa chiuso a chiave e che ogni verità può fare bene e fare male. Credo che adesso mi devi far sentir le mani, che a quelle credo. Qua nessuno c'ha il libretto di istruzioni, credo che ognuno si faccia il giro come riesce a suo modo. Qua non c'è mai stato solo un mondo solo, c'è il libretto di istruzioni.